Eccolo, ci siamo? Sei tu che suoni? Ah, è l'altro, ok. Io mi sento un po' disturbato, tutto distorto, però mi sento. Ah, prova. Mi senti?